nonna mi ha dato del bastardo è un buon inizio per un pomeriggio. Seppellito in una pelle di ghepardo, impiccato tra il cielo e l'affitto. Palazzo, non mi sembrava molto convinto, ha lasciato la moglie d'un osso e un pappagallo variopinto. Caposala, non mi fare incazzare, perché se non scrivo una mail a Wojtyła non ho chiesto che pensi di me. Del bastardo gioca al lotto e non guarda se ha vinto, tra complice di un San Bernardo conosciuto durante il secondo conflitto. La testa mi dà del codardo, perché mentre mi mangi sto zitto. La valeriana sarà l'ultimo conforto, strappa il quadro su cui m'hai dipinto. Oh caposala, tu m'hai fatto incazzare, perciò sto scrivendo una mail a Wojtyła e un messaggio a Jean Todt.